nuovamente in studio sui 103.1 di Radio Città Fucico da via Zanardi. Il buongiorno e la prima colazione in diretta. Il martedì è imprevedibile oggi, in maniera un po' così strana, è prevedibile invece. Altri suoni nasce come una rubrica per il martedì. Poi chiaramente a seconda di questi 10 minuti vengono utilizzati per dei last minute o per varie ed eventuali, e a volte non sempre viene mantenuto tutto ciò. Invece sarà imprevedibile, ma in questo caso ha mantenuto una sua coerenza. È martedì, è la prima puntata di Altri Suoni. Per chi non la conosce, qualche minuto, due o tre brani che non sono così consueti nella diffusione musicale. Oggi parliamo di acid jazz, ma in un certo modo lo facciamo innanzitutto dal paese del sollevante, dal Giappone, dove una grandissima passione a Tokyo, e non solo, per questa corrente musicale ha avuto una diffusione e pubblicazione con motivi di ricerca che non flirtavano di certo con le iconografie stereotipate nipponiche, ma piuttosto avevano motivo di individuare alcuni aspetti della musica afroamericana, della musica soul e della musica jazz che magari non proprio così presenti per quanto riguarda non solo l'aspetto del mercato ma anche dell'ascolto. Tra hip hop, elettronica, un accenno di down tempo, anzi una presenza di down tempo ben incisiva per quanto riguarda i Silent Poet, che già vi lancio la formazione per la bellissima record 99 Records, una label di cui abbiamo parlato. Ma per quanto riguarda queste sonorità non abbiamo mai approfondito la formazione dei Silent Poets, perché Altri Suoni all'interno di questa rubrica finisce il duo nipponico di Silent Poets, perché è un acid jazz molto colto, perché è una scrittura musicale moderna e allo stesso tempo anche con una sorta di curiosità nell'intersezione tra hip hop, aspetto elettronico, l'aspetto acustico, i testi, queste scritture hip hop come ad esempio portavano i Galliano per Talking Loud, hanno visto una diffusione quanto mai fertile anche in Giappone. I protagonisti sono il Silent Poets, questo è il loro secondo disco. Il brano si intitola semplicemente Day, ve lo faccio ascoltare e poi rientriamo per continuare questo mini DJ set. Copre tutte le frequenze, i bassi sono intensi, il field recordings è tipicamente in urban style, il soul è presente, il dub prende la parte principale nell'aspetto ritmico, la reiterazione tipica del dub, i suoni apparentemente reiterati diventano ogni battuta sempre più pieni e forbiti. È una costruzione musicale che ha visto anche la collaborazione, ovviamente quando parliamo di queste sonorità agli albori di Nobekazu Takemura, produttore quanto mai curioso anche lui e ricercatore in ambito elettronico. Dall'acid jazz al down tempo sono stati precursori, se vogliamo, di questo, e nell'acid jazz, che aveva un'intersezione tra l'aspetto di divulgazione per una musica afroamericana, allo stesso modo, perché no, anche un aspetto leggibile, diciamo che i Silent Poets fanno parte di una narrazione, una scrittura decisamente molto molto colta. Vi parlavo di una somiglianza, ma più che somiglianza, diciamo un'attinenza così frequente, ma anche allo stesso modo molto particolare con il Galliano. Questo brano ne è un esempio, è preso dal disco Words and Silence, e loro sono i Silent Poets. Now the children of the future try to come to terms with the industrialized nations and their corporate firms to decontaminate the planet and meet their demands. Detoxify the oceans, rivers, lakes and lands. Purify the air, get rid of nuclear waste. Put it on a rocket ship and launch it into space. Tone down, hone down, own down hatred to love for the most high's creation is sacred. Rectify, recompense, repatriation. Clarify, satisfy, reevaluation. Spiritualize, realize hope and aspirations. Recognize, stabilize the unity of nations. Take all the bullshit and bury it with a shovel. Quit the lying, spying, alibine, damn the devil. But the parents of the future, like the ones in the past, had an apocalyptic childhood and the die was cast. Those among their leaders were the children of the present. Diabolical, devious, extreme and unpleasant. Irradiated, mutated, DNA changed. Sci-fi, sinister, slick and strange. Strange, strange, strange, strange. Megalomaniac, satanic, scientific motor, the pavilion of oblivion based on creed and code. The super secret, clandestine, indiscreet elite saw the conquest of nature ending in defeat. They had dared to do or what they shouldn't have done till the planet overheated from the rays of the sun. You couldn't tell them nothing cause they didn't want to hear it, and oppressed all the people till their souls couldn't bear it. Raffinati con questa voce, l'hip hop alternativo, alternative hip hop, Silent Poet, la collaborazione con altri musicisti e non solo dal Giappone, la label bellissima 99 Record, così chiamata, appunto, non è un complimento che sto facendo, è la bellissima. For their lives, for all it was worth, they burrowed in their capsules till they reached a third earth. Out of debt that was equal to the stratosphere, they met the underground dwellers that lived down there. These subterraneans were evolved and aware of the facts, and they gave the children shelter, then covered their tracks. Tracks, tracks, tracks, tracks. Parti acustiche ed elettroniche ben intersezionate fra loro. Continuiamo appunto con la selezione che ho voluto portare da uno dei primi dischi. Ecco, i dischi che ho portato e che fortunatamente ho intercettato all'interno del mobilone dei CD sono tra i loro primissimi, le loro prime pubblicazioni. Ori Silent Poet è da un duo, è rimasto solo un singolo, si sono per così dire separati dal 1990 in attività, quindi epoca d'oro per la acid jazz. Di questo loro ne hanno fatto ricerche in maniera quanto mai originale, i poeti silenziosi. Abbiamo ascoltato dischi da Firm Roots, il loro secondo disco, Words and Silence, e questo è il loro primo Potential Meeting. Thank you. questo disco, ricordo, 1990, a termine di un allenamento, ci ritrovammo assieme a termine di un percorso all'interno di una società che militava in Serie C, io e un atleta, un anno più giovane, lui è del 70, io del 69, che saluto, ricordo solo il suo cognome, questo, anche lui giocava da lungo, poco più basso da me, ma ben più fisicato, tale Cavedon, comunque grande intenditore di musica, grande appassionato. All'uscita di questo disco ci trovammo in piena notte in macchina da me ad ascoltare Potenza al Meeting, e per farci luce, per cercare brani, abbiamo usato l'accendino, in quanto la macchina non era fornita di luce interna. Potete immaginare lo scassone per quanto riguarda i miei spostamenti da casa allenamento. Si è fermata una volante della polizia, ma cosa state facendo qui, la luce, l'accendino, ma noi stiamo ascoltando Oggi Jazz, abbiamo detto. Allora, ah, ok, va bene. Abbiamo destato sospetti, ma come Addicted abbiamo la buona musica. Dai Silent Poet, ovviamente giunti a conclusione con questa rapida panoramica, concludiamo come spesso ripeto, queste formazioni poi danno una grandissima ispirazione ai colleghi, ed è uscito un Firm Roots, il disco con cui abbiamo aperto la mini playlist per altri suoni, un Firm Roots remix, e tra i protagonisti di questo lavoro troviamo Up Bustle and Out, Smith & Mighty, Natural Calamity, DJ Cam, e io chiuderei con il lavoro dei Fila Brasilia per remixare i nostri protagonisti. Già qui sentiamo il tipico stile dei Fila Brasilia che conosceremo, già li abbiamo conosciuti forse, non so, non ricordo. Beh, sempre ascoltare Fila Brasilia non è male, eh? Firm Roots Remix, il lavoro dei Fila Brasilia, e si conclude qui la prima puntata per il 2023-2024 di Altri Suoni. I poeti silenziosi sono stati i protagonisti. Ci sarà il podcast. Per informazioni ulteriori vi ricordo il 333-180-9494. A breve la prima puntata del Move to Groove con uno speciale, alcune osservazioni, alcuni approfondimenti, alcuni parallelismi con i mondiali di pallacanestro tuttora in corso nella stagione 2023. A tra poco quindi sui 103.1 da remoto ci sarà Paolo Onofri, e quindi siamo in formazione, si può dire, completa. A tra poco.